2009, nel mondo Dio si muore. Insieme al prezzo del petrolio sale pure la tensione. Si uccide per un nome, il nome del Signore, che ha la fede al dito medio, un conto in banca da un milione. Ha sotto 600 persone, sta stregando una nazione. Ipnosi con i mezzi della comunicazione. Ora che nulla è come pensi, stando al codice dei gesti. Zanichelli scrive il dizionario, ma di doppi sensi. L'epidemia messenger è la nuova HIV. Sarà l'epilessia crescente, posta il video su YouTube. Sbatti in mostra la TV, fatti amici su Facebook. Smania ed egocentrismo col nudismo su Badoo. Azzera il contatto, ora che tutto astratto. Ha iniziato col MySpace e ti ritrovi col contratto. La mia generazione ha seppellito quella prima. Prima Celentano e Mina, adesso Fumo e Chetamina. Voglio più motivazioni per scrivere, per cantare. Se vuoi mettermi in silenzio, società devi cambiare. Ehi, ti voglio dare un motivo per pensare. Questa è pure la tua terra, non ti ci devi adattare. Voglio più motivazioni per scrivere, per cantare. Se vuoi mettermi in silenzio, società devi cambiare. Ehi, ti voglio dare un motivo per sperare. Questa è pure la tua terra, non fartela calpestare. Faccio all'inferno, fermo. Mi è rimasto poco tempo per giocarmi l'eterno. Traccio righe sul quaderno, il vuoto interno. Prende posizione, il mio amore diventa inverno. Matricola 3-0-0, 2-0-0-9. Fai precario anche l'amore, confermo le parole. Scommetto che tu hai le prove. Dove per dimostrare fatti non serve andare su Giove. Un nuvolone oscura al sole, il cielo diventa grigio. Mentre lascio alle mie spalle l'edificio. È un contratto finito, un augurio, un auspicio. Gesù mi piange addosso, capisce il sacrificio. Io il primo, fra il peggio del proletario. Interinale, ultimo della classe operaio. Svario, ma non c'è tutela in questa telenovela. Ci usano per pagare la loro crisi mondiale. Voglio più motivazioni per scrivere, per cantare. Se vuoi mettermi in silenzio, società devi cambiare. Ehi, ti voglio dare un motivo per pensare. Questa è pure la tua terra, non ti ci devi adattare. Voglio più motivazioni per scrivere, per cantare. Se vuoi mettermi in silenzio, società devi cambiare. Ehi, ti voglio dare un motivo per sperare. Questa è pure la tua terra, non fartela calpestare. 009, il mondo sfiora il dramma. Crisi finanziaria, il rosso, il fondo in banca, il politico ci inganna e per lo stress mentale va nel centro di benessere a farsi massaggiare, tranquillizza. Spendete senza pensare, poi manda 40 euro e pensa che si può mangiare. Qualcun altro a capo ha fatto tutto male ed è affondato solo dopo aver svuotato i fondi dello Stato. Questa gente ha perso la pazienza. Perché chi prima aveva un lavoro ora sta assente. E conosco già la trama di chi maneggia e trama. Quando gira poca grana ci si scanna, ci si sbrana. E questi tali in vana scende in piazza e manifesta, reclama e non abbassa mai la testa. Protesta, sì, e sfida tutti gli dèi. Uniamo nord a sud in chilometri di cortei. Non voglio più motivazioni per scrivere, per cantare. Se vuoi mettermi in silenzio, società devi cambiare. Ehi, ti voglio dare un motivo per pensare. Questa è pure la tua terra, non ti ci devi adattare. Non voglio più motivazioni per scrivere, per cantare. Se vuoi mettermi in silenzio, società devi cambiare. Ehi, ti voglio dare un motivo per sperare. Questa è pure la tua terra, non fartela calpestare. We'll be right back.